va bene allora. Oh, ho capito che tra l'altro è tutto distorto. Non so se è un FM, capito mi hai già? Sì, sì, ho capito, io pensavo che fosse il coso sballato, invece. Vabbè, non dai fatti che deve dare, ma è normale che. E poi così anche a manettone l'apparecchio, l'apparecchio lo tengo a manettone e non c'è la distorsione. No, no, no, la modulazione è bella questa. Poi buoni che scende in gradi, è bella, l'altra invece è tutta distorta, capito? Attenzione, Sassari! Ah, ecco chi era, cane morto. Non ti volevo far capire. Attenzione, Sassari! Ah, ci siamo! Adesso già ci sei. Adesso ci sono, sì. Beh, adesso già sei tu, però non ti volevi fare capire. No, era freddo, adesso sta scaldando. Ah, così, è così che messo il fiammifero sotto. No, ti ho fatto il fuoco. Tu hai un freddo ora, manco a casa sta salendo la temperatura, 21 gradi, ieri c'erano 23, c'è riscaldamento a manetta. Ci ha lasciato un po' di freddo fuori. E prendi già, vai per Sandro, vai. Stai andando benissimo adesso, eh? 9.40, radio 5. Ciao Sandro, ti senti già chiacchierato. Sto facendo la vostra, sto montando un computer che non devo cominciare, di una strumentazione che a furia di nuovo di fare un po' graffiato, adesso me la rifaccio tutti. Ciao Gianni. Saluto anche a Ossilandia, mi sembra che c'è Ossilandia. Oh, Claudio! Dimmi, sa. Ok, ascolta, siccome ho fatto un lavoretto, sempre dietro direzione del maestro, adesso stavamo sempre al processore. Va bene anche senza processore. Col processore distorce troppo. Allora, aspetta. Devo passare, ok, vedi un po' col processore inserito? Sì, se lasci così va benissimo, non c'è problema. Ehi, hanno detto quale trimmer toccare, c'è poco da fare, mi hanno dato la... hanno detto quale trimmer toccare, 2R6, e tu sei a posto. Non ti ho capito, cosa hai detto? Se ti ha dato indicazioni il maestro, che conosciamo noi due, sicuramente ti ha detto di sollevare leggermente la LC, e si chiama VR6 quel trimmer. No, negativo, ti sbagli, non ho sollevato nessuno LC, ho eliminato una cosettina. Eliminato una cosettina, e si è eliminato lo... Ma cosa hai eliminato? Il nero? Ah, mi ascolti? Te ne ascolto io, ma io non elimino mai quello, perché se tu vai in FM adesso, passi in FM, senti il cambio della modulazione. Prova a passare in FM. Vai a vedere, parla. Vedi un po', parla un po', ti senti? Qua, io non ti rispondo, Antonio, come lo senti a... Sandro, Antone, la modulazione è la metà di quella della M, la metà, capito? La metà è Sandro. La metà, aspetta un attimino, adesso la metà è... C'è leggermente più alta, ma non ha niente a che fare con quella della M, eh? Completamente diversa, capito cosa ti volevo dire? Ho capito, comunque in AM, vabbè, sarà migliore. In AM è molto meglio dell'FM, però senti questa, che io quello non l'ho mai tagliato, praticamente deve comprimere tra AM e FM, più o meno uguali, dai. Invece la tua è diversa proprio la radio, capito? Ho capito. Aspetta, ho tolto il processore, così, uguale. Così è ancora più bassa. Così è ancora più bassa. Va bene, vuol dire che fluisce solo in FM. Eia, perché praticamente quello che tu hai tagliato è un accoppiatore di modulazione che sta in mezzo al modulatore. Ed è il D49. Infatti, io ho pensato che avevi toccato il VRC, che è il trimmer proprio delle leci, invece si è andato a tagliare proprio il diodo. Ti cambia la modulazione, il problema è lì. Però se a te ti va bene così, non c'è problema. Ti praticamente ti allinea la M ma ti sfasa l'FM. Capito? È proprio un diodo di allineamento che mettono in mezzo. Già lo so, già me l'ha detto, dai, già me l'ha detto, ma è giusto una prova così. Ma va bene, passa la M. Ok, allora, se posso regolare? Sì, rimettila come era prima. Allora, rimetto come era prima. Ok, così va bene? Sì, lasciala fare così, va benissimo, non c'è problema. Non prove, insomma, quindi hai deciso di tenerla di nuovo quella. Poi con calma mi spieghi questa cosa che hai fatto, cioè hai dato quell'altra che era secondo me nettamente superiore come radio. Claudio, sono simili, sono uguali. Se vedi questa è come che vedessi quella là, non cambia niente. Non lo so, questa ti sento bene, il segnale è buono, la radio è buona, l'altra mi sembrava come timbrica leggermente più forte, non lo so, e come va, te quanto è quell'altra mia? È uguale, dico che è uguale, Claudio, specificata, non cambia niente. Nuova di pacca era quella là, nuova di pacca è questa qua, non cambia nulla. Boh, vabbè, chissà, sono scelte e cambi che hai fatto, non so, io quell'altra, ti ripeto, la conoscevo, quindi questa non la conosco. Va benissimo. Mentre invece noti differenza di modulazione nella mia radio, è sempre uguale. Sì, la modulazione la noto perché almeno alla ricezione di questo non è chiara, diciamo, come modulazione, rimane compressa. Compressa? Io sto andando con 50 watt. Guarda se diventa più chiara così, guarda. Ho abbassato leggermente il mic, ma di compressione io non capisco. I watt sono 50 watt. Allora, la classica modulazione rimbombante, capito? Rimbombante. Diciamo, come ti ascolto qua e io adesso nella sua ricezione, già lo sai che questa ricezione è un mattone, capito? Rimbombante, ma non compressa. Rimbombante vuol dire che c'ha molti acuti, però è chiara come modulazione. È chiara, cioè è comprensibilissima, soltanto che rimane rimbombante come modulazione, capito? Se passo sull'altro, sul veicolare, ti sento molto più chiaro, è la ricezione di lui, di questo. È un difetto, non è un difetto, è un pregio. Anche a me a volte col 440 sembra che, infatti a volte dico, ma roba ci sempre figadeo. E invece è così, vabbè. No, questo qua il microfono è sempre uguale, la radio è sempre, non ci sono problemi. Perché stavo tenendo il mic un pochino magari troppo alto, ma infine. conferma da Torino, ce li dovrebbe avere ancora, almeno io ne mi ricordo, ne avevo preso uno da lui, da Torino, mi sembra sulle 60-65 euro, ce li fa pagare. Un'occhiata a vedere se ce l'hanno dopo un po' quanto vengo, va, non mi viene bene. Tutto perché ci tengo, capito? Ma solo per la ricezione, ma diciamo anche in modulazione con l'abbonamento del 908 già si difendeva, capito? Bella, scusa Antonio, ti rimetto subito. Ma cos'hai abbassato la potenza adesso? No, non ho abbassato nessuna potenza. Perché? Sta rimodulando, si è sceso a 9,29. No. Aspetta un attimino, ma vorrei che fosse lui. Sai cosa mi ha fatto un paio di volte? Come l'accendevo, infatti gliel'ho spiegato al maestro, mi si illuminava più del dovuto la luce dello smitter, del frequenzimetro dell'apparato. Non vorrei che sia lui che stia dando segni negativi. Un brutto segno quello, Sandro, è un brutto segno. Stai attento, perché può darsi che si abbassi e si aumenti l'alimentazione. Con quale alimentatore lo stai alimentando? Col PS50? Sempre PS50, ok. Sempre lui, capito. No, me l'ha fatto un paio di volte e poi se l'ha lasciato, infatti gliel'ho detto l'altro giorno, ho detto guarda così, ho detto ma non è che l'ha parato, no. Ho detto con che cosa lo stai alimentando? Ho detto con di linea, col PS50, dice c'è qualche componente, ma ha detto che sta dando segni di negatività. Registrato vecchio. E vabbè, tanto va in protezione quello, quindi non ti crea danno alla radio. L'importante è che ti alimentano con quello, perché me l'ha fatto anche a me. Strano, molto strano questi alimentatori, me l'ha fatto anche a me. E praticamente me l'ha fatto una volta, poi non me l'ha fatto più. Bisogna stare attenti, a questi alimentatori, non lo so. Avanti Becchi. Buonasera a tutti, Sandro, Vapor Dottor, c'è anche a te Claudio. E non so altro chi ci sia, Ciao Anto, buonasera. C'è Antonello di Ossi, vediamo se riprende e fa facendo cose, Antonello. Io sono qua, no, mi hanno messo anche nella parte a un po' più di me a doppio room, che stavano manovrando e poi non si è fatto più sentire. Stava verniciando un coperchio, boh, non lo so. Già siamo qua, quando vuoi entrare entra, non c'è problema. Sì, Sandro, è così. Ma l'ha fatto anche a me. Infatti mi sono rassicurato perché ho visto la radio che praticamente è salita, si è illuminato di più il display e poi si è rimesso a posto. Mamma mia, cosa sta succedendo qua? Ho spento subito l'alimentatore. Ho controllato, ho riacceso, non l'ha fatto più, adesso da tanto non lo fa, però bisogna stare attenti, perché sicuramente è lui che sta iniziando a perdere colpi, e vabbè, gli alimentatori lavorano, soprattutto quando sono così stabilizzati a trasformatore, lavorano, e quindi già c'è la protezione, comunque quello lì non c'è problema, se dovesse andare qualcosa in corto in perdita, ti si spegne automaticamente la radio, sappi che lui rimane acceso, ti ricordi l'altra volta cosa ti ha fatto, accendeva ma non alimentava, quindi fa la stessa cosa, ti si spegne la radio, però la luce rossa dell'alimentatore rimane accesa perché c'è il circuito di protezione che praticamente non ti dà per proteggere la radio, te la spegne, capito? Però lui rimane sempre acceso, non c'è problema. Le prendi per Antonio Bombo, lo senti, sì? Capa. No, negativo da parte mia per Antonio Bombo, lo saluto. Ciao Antonio Bombo. Sì, no, allora, infatti inizialmente a me mi ha detto cazzo cosa sta succedendo, ho spento subito tutto, ho eliminato tutto. Ho espressato, ho detto che stesse andato lui in tilt l'alimentatore, infatti ho fatto la spinetta alimentazione. poi ho chiamato, ho detto guarda così, ma detto, dice no, dice è un piccolo componente, diciamo, che ti sta dando dei segni di negatività. Se lo potrebbe lasciare, potrebbe andare in tilt, però alla radio non succede niente perché la radio va in protezione. Quindi in effetti mi ha specificato le stesse cose, diciamo, che mi stai specificando tu. Addirittura mi ha detto questo, di mettergli sopra una vetturina per aiutarlo, diciamo, a... Guardate il segnale di sangue se sale e scende. Allora, dalla parte sotto diciamo c'è il dissipatore, giusto? Nella parte superiore sopra del coperchio porto già tutta, diciamo, la scheda dei componenti, dei vari componenti. Ti metto, mettiti una vetturina messa alla rovescia per aspirarli, aiutarlo a raffreddare, che prenda aria dall'interno e la butti fuori. Infatti ho fatto così, non me l'ha fatto più, però lui mi ha detto occhio, dice, perché è probabile che se lo lascia. In effetti, diciamo, per aiutarlo, diciamo, a raffreddare. Tutto lì. Va bene, vediamo forse se è stato Antonio Bombolo. Aspetti un attimino, sto attaccando un'altra radio perché devo vedere anche una cosa. Sentito? No, negativo da parte mia. Ok, sto attaccando l'altra radio, avanti Gianni. Ehi, sono rientrato, con tutto il verniciato. Adesso devo solo riportare. Prendi le verniciate, lo buongiorno. Allora. Sei un freddo. No, che c'ho la veranda chiusa io. La veranda scorrevo. Ah, è vero, lì c'è la veranda in vetro, sì. Tu sei all'interno, a te non ho fatto fare. Io la volevo chiudere già da qualche anno, invece siccome è facciata non ce l'hanno concesso. Vabbè, pazienza. Avanti, Antonio. Eia. No, vuole da Gianni, se ce l'ha da molto questo lineare 747 che stai utilizzando, l'hai preso da poco. No, ce l'ho da molto. Ma alla fine ogni volta che tu muovi hai sempre attaccato quello. No, sempre, ogni tanto. Ah no, vabbè, no, perché alla fine stavo dando un'occhiata, così ne volevo occuparlo anch'io, ma sai, tu divertivo per quando c'è propagazione, tutto lì. Ma ho fatto un giro di conti, ho visto un po' cosa c'è su internet, ce n'è uno a valvolare, un BV131, non so di che anno è, una scatola enorme a valvole, la stanno dando a 23,50 €, poi c'è scritto che se le valvole accendono, dice, poi è da anni che non lo usava questo tipo, e ci mancano 3 giorni alla scadenza, comunque viene 23,90 €, non so se ne convenga. Aspetta, no, le valvole si ricordano, se va lineare se sono le valvole che sono scariche, conviene sì. Il modello è vecchio, rimane sul grigio antico, rimaneva, dice l'unico difetto c'è il vetrino, in pratica rotto dove indica la potenza. Lui dice che le valvole accendono, poi dice ma non garantisce, dice, la funzionalità. E c'è scritto vintage, sicuramente è abbastanza vecchio come lineare. E vabbè, tu non lo so, vedi un po' se ti conviene, ma io roba così non le prenderei, già con il vetrino rotto, la pure proprio non so se funziona, può finire che sta dando roppata. Ora? Sì, quello sì, alla fine qua riesco a trovare un buon prezzo, un 747 e adesso l'ha posto. Allora, un attimino, che cambiamo storia qua. Mi sentite? Sì. Qui a voi. Anzi, una bomba essa, una bomba il cazzo. Le avrei messi tutte dentro il cassetto con le radio e con tutto rispetto per il 440, però cazzo, questa è una cosa allucinante. Ma veramente bella, Attenzione Sandro! Ehi, conosciamo popolo, qua mi, qua riesco di, diciamo, un attimino a tirarti appena appena fuori, eh. Allora aspettate un attimino che qua devo accordare meglio. Ok, va bene, fai un passaggio qua, Clatt, voglio sentire la modulazione tua. Vado a vedere, ho detto che questa è micidiale, cioè non ho mai sentito veramente una radio così squillante e bella, con questo eco bellissimo, veramente bello. Io quando devo dire cose, sono abituato a dirle come mangio, è veramente, ma veramente bella, bella, bella, bella, c'è questa tonalità che piace a me, sembra un 48 modificato, ma secondo me è ancora più bello, veramente, senza offesa per nessuno, però questa è veramente una bellissima radio, veramente bella, Sandro. Vabbè, dai, tutta un'altra storia qua, niente proporzione con quello là, però quello là è cosa. Allora, tornando diciamo al discorso della tua ricezione, vedi qua ti sento bello, chiaro, limpido, ma sento tutti più belli, chiari e limpidi. Quello là tu già lo sai, che per natura diciamo la ricezione è un mattone, solo per questo. Invece qua proprio la ricezione è bella, chiara, chiara, chiara. Vediamo un po'. Ossilandia. Comandi. Comandi. A te l'antenna. Mi senti? È perfettamente forte e chiaro. Limpida è perfetta, senza nessun dubbio. E questa modulazione, la mia, sul tuo giudizio, non so se cambia. Sto usando una 44. No. Come ho già detto, Antonè, sento molto meglio tutti quanti. Le modulazioni sono più belle, chiare e limpide. Tutto lì. Va bene, va bene. Gianni. Sì, anche io mi sento abbastanza bene. Però secondo me questa qui è la radio che ti ho sentito meglio. Forse è una delle radio che ti ho sentito meglio adesso. Vabbè, diciamo che già lo sai cosa sto usando, quale radio è questa. È una piccola radio che nel suo piccolo, diciamo, si difende, dai. Vabbè, a parte con tutti i suoi accorgimenti che sono stati fatti, è tutto lì. Cosa ti volevo dire? Mi va di fare un passaggio in FM e poi Clatt lo faccio sentire in FM, sta qua. Eia, vai, prova a parlare. Ok, allora aspetta un attimino, esagerato, ok, com'è? Bella anche in FM, bella anche in FM. Aspetta un attimino, allora aspetta un attimino, ok. Allora qua sono tutto aperto, tutto a manetta. Com'è il segnale lì da te, Clatt? 9,60, Alessandro, 9+60. Fa bella, CNM in FM. Eia, però in FM accentua molto lo stacco di Claudio. Mi senti bene in FM, Antonio? Perfetto, però accentua molto quando schiacci la portata e fa tac. Ce l'ha divisa sta radio. Questo microfono, adesso mi avviso, c'è l'inizio a dare questo tocco. Antonio Momo, 9+60, anche tu qua, 9+60. Chia, ho aumentato di brutto. Adesso, 9+60, in FM sì, a fondo scala, senza problemi. Gianni? No, va a vedere, 1, 2, 3. Anche tu sei perfetto in FM, non ve ne dava. FM, siete tutti una favola, uno più bello dell'altro. Sandro c'ha cioè questa modulazione allucinante. Allucinante, sa, veramente. Cazzo, un'ottima radio quella, veramente un'ottima radio. Maestra Lentatomi, te lo come me ne abito io. Ottima radio, veramente, molto bella. Complimenti, perché c'è un abbinamento che ma il microfono normale stai usando? Sì. So mai che di dotazione, diciamo, so mai che normale. Scritto, normale. E dai, tutti bene state arrivando, vi sto ricevendo con il Kenwood, state arrivando benissimo, tutti, radio bellissime, forti, chiare, belle, pulite, cazzo migliori così non si può uscire veramente. Ma anche in AM, Sandro non vi batte a tutti. Qua è bella, quella di Sandro, molto bella, però come preamplificazione, ecco, cioè come timbrica di modulazione preferisco quella di Gianni in FM, mentre in AM quella di Sandro prevale. Anche Antonio Bombo sta uscendo molto bene anche in FM. State uscendo bene tutti, veramente bene. Faccio una prova, allora questo da così, ok, a così, quanto è sceso? Io non credo di molto, la 60 si è scesa a 50, ma in FM spinge molto anche la radio sicuramente. Così è normale il suo, così sono in FM ne da quasi una settantina in FM, e invece così sono 7.000. E non cambia molto, vedo la lancetta che si sposta poco, sa, in AM sì, e se in AM vai da 9.5 a 9.25, mentre in FM è troppo alto il segnale, aspetta, prova a attenuarti, prova. Ok, aspetta un po', vediamo un po', quasi 8 sono. Anche attenuato si abbassa il segnale, rimane inchiodato a 60. E va bene, dai. Vabbè, se volete passare in AM. Bene, FM. Claudio, ti volevo chiedere un parere su questa radio. Com'è in FM? Bella è Antu, bella è bella, ma anche in AM esce bene, esce molto bene. Tu in FM sì, 9 più 60 pieno. E la radio è bellissima, bella, pulita, chiara, forte, molto bella anche. In questo momento sto usando quel cicafuso, quello piccolo, ma stavo usando l'altro, adesso sto usando quello piccolino, 4 watt, è quello normale, dai. Oh bella, ecco il microfono suo normale. Tutto suo, mica, non ne ho mai messo io qua di microfoni diversi. Minchia, bella, pensavo stessi usando qualche preamplificato. È bella forte la modulazione, bella presente, bella chiara. State andando tutti bene, tutti. Gianni in FM c'ha una modulazione bellissima, ma anche in AM rimane più aperta, mentre in FM già si chiude proprio questo effetto presenza che la rende molto, molto più bella ancora. Ma sono contento, ci avrei giurato che uscisse così bene questo apparecchietto. Ma perché me l'hanno detto anche altri, me l'hanno detto. Ma sono contento, dai. Io non uso mai microfoni amplificati, ne uso pochi proprio. Uso sempre microfoni originali. Conviene usare il microfono originale, cos'è? Io perché sono abituato talmente tanto a questi MC60, SM20, che oramai è talmente l'abitudine, anche perché la modulazione di queste radio non è che cambi molto dalla M all'FM, capito? E quindi uso sempre questi microfoni, ma ci sono microfoni palmari che vanno molto molto bene. Molto molto bene. Lo senti a bombolino in FM, Sandro? No, negativo. Negativo, lo sento il sottofondo, però negativo poter capire quello che sta dicendo. Ma non ho potenza. Aspetta a vedere se mi senti, aspetta. Io attacca tu, attacca dalle aria. Mira, porto Torres, arca miseria. Con te qualche segnale da parte sua, da parte tua. Tomè, stai strappando? Ehi. Sono qua, Sandro. Sandro. Oi. Non lo sei, Antonio, vai Antonio. Attenzione, Sandro, cappa. No, qualcosina leggermente in più, ma negativo. Devo attaccare... Non posso attaccarlo, se no sei visto che mi avessi inteso. Vabbè, ma lui anche in una zona in particolare, tu. No, qua, cazzo, qua si è fondo scato. No, non c'è problema. Ma Antonè, cos'è che vuoi da Sandro? Non ti ha capito mi. Vabbè, volevo chiedere a Adele quant'è il mio segnale da parte sua. Allora, Antonè, tu mi stai arrivando a 9.10 qua. Sì, va bene, dai. Sono 44, va bene. Quante volte dà quella radio? È originale, avrà preso 4 watt. Mi dà una 44. Non so se ce l'hai presente. AMFM, basta, 40 canali. Sì, è prima della LAN 48. È il modello prima della LAN 48. Hanno fatto la LAN 44, la LAN 48 e la LAN 68. No, va bene, fanno bene quelle radio, non le date mai, vanno benissimo, vanno alla grande, sono radio per fare due chiacchiere, ce ne avanza, io mi c'era questa accesa, se no adesso la spengo e attacco il baracchino, non c'è problema, solo che col baracchino non c'è FM, capito? C'è la M e le bande laterali e basta, l'altro la FKB23 è lo stesso, c'è la M e non c'è l'FM. Sono tutti baracchini vecchi, capito? E FM non era ancora nata. Se no lo attacco. KK. Io Sandro sono con la potenza della radio, 50 watt. Via, va bene. Sì, no, io adesso sto uscendo stesso con i watt dall'apparato. Allora, in FM, ne sta dando... Sì, quasi 60 watt sparando in FM. Con solo il watt dell'apparato riesco a attenuarti da 9 più 60 a 9 più 30, perché questo attenuatore è di 30 dB. Mentre invece quando si è attaccato non si abbassa, rimane sempre a fondo scarto. Non attenua, capito? Perché c'è un po' di potenza, tutto lì. Va bene, vediamo se riprende Gianni. Fai due giorni, riprendi a tu. Campa, ma Sandro lo sento abbastanza bene qua, non riesco a capire perché a me non mi senta. Lo sento arrivando a Santiago 8 tranquillamente qua, chillante, a 5.8, tranquillamente lo sento, senza problemi. Sandro già si fa sentire, cazzo. Un segnale allucinante oggi. Quanto è sasso che sta arrivando? Quanto è buio? 9 più 60 in FM e in AM arriva a 9.20, quindi ci sono segnali che arrivano a 9.20 da Sassari qua, figurati, arriva un bel forte, un bel forte, parecchio, poi con questa radio cazzo è micidiale. Questo altro giorno di lampasse di... Infatti chiedi di usare questa, che secondo me era la meglio di tutte. Insomma, questa modulazione è proprio allucinante, cioè bella, forte, con questa tonalità medio-bassa, sai, allucinante questa radio. Che cazzo di radio è? Che radio stai usando? Cos'è? Il Magnum? No, non è il Magnum. Questo è un S45 HP, made in USA. Cos'è? Un aereo S45, cos'è? Un 19? Un bombardiero, come si chiama? È così, si chiama così. Un S45 HP. Made in USA. C'è scritto bello grande, Made in USA. Sono le radio di Vegas. Che bella radio, veramente. Inchieve. Se no ti sento con quella radio, sollevo il volume veramente, sollevo il volume perché mi piace proprio ascoltare la tonalità che c'ha, la timbre che ha proprio questa radio prepotente, con questo eco che è allucinante, ma non è che sia proprio, è allucinante di quanto è chiara, capito, di come proprio gira la modulazione con questo eco sotto, una di quelle radio modificate, così, solo che questa c'ha una tonalità che mi piace veramente tanto, molto, molto bella. Ragazzi, i pezzi della Magnum Radio. Sicuramente sì, Anto. Attimino, aspetta. Cos'è sa? Passate una M. Ehi, passiamo una M, io sennò io che devo passare la bottezza che c'è scendendo la radio. Eccomi. E tu come che ballattimento che c'era stesso Anto? E tu cosa stai usando? Del 550 Power, col microfono suo. Questo microfono originale? Qua, microfono originale, la radio che dà eco, da bip e tutto quanto. Senti, allora, tu sei che stai usando qualche microfono con l'eco. Bella anche questa la timbrica, molto bella. Io ho l'altro giorno, prometto, è suo proprio, l'eco è il suo dell'apparecchio, come la Intec l'ha fatto. Bella, bella, bella. Gianni? Allora, aspetta un attimino, eh. Esciuca. Aspetta. Cara Ugo. Aspetta, eh. Senti, aspetta un pochettino, vediamo un po', allora, e senti Claudio questa voce? Cazzo di Aloni, ecco, grazie. Bella, bella, bella, bella, bella forte, un bel ecco c'hai. Mi dispiace, le femme non ce n'è. E cambiano il mondo, guarda, tutte le modulazioni sono perfette, ognuno c'è la sua particolarità, ma in FM non ce n'è. In AM veramente sporca un po' tutti, è la verità. E quale? Tutte, secondo me. Al mio ricco siamo tutte sporche, sì, ognuno c'è la sua particolarità, ma in FM sono tutti difetti, secondo me non ce n'è. In AM pompano molto di più queste radio. Sì, ma tu considera che in FM è tutta un'altra modulazione, è una modulazione diciamo più chiara, più bella e selettiva e più pulita, capito? Quindi non c'è radio che possa uscire diciamo con una telefonata. Tutto lì? Va bene signori, io ne approfitto, vi lascio che devo portare il mio quattro zampe a fargli fare la passeggiatina. Dai, saluto di circolare alle prossime. Riprendi, Clara. Eia, dai ragazzi, anche io vi seguo perché sono già le 10, vado a vedermi una mezz'oretta di TV e poi me ne vado a nanna perché domani mi devo alzare un bel presto. Sennò è un casino. Ok, dai, ciao Antonello, ciao Antonio. Salutatemi a Gianni quando rientra, eventuali ascoltori, da parte mia, cuore e tango. Buonanotte a tutti, riprendi a tu. Cioè, volevo dire un'ultima cosa, ti saluto. Tu ci credi una cosa, che quando ho questa radio che sto usando ora, io se non ho toccato il pomello quattro volte per cambiare i canali, sempre al microfono. Ma quello c'ha il demone app dal microfono pure, no? Sì, me lo ricordo. Ecco, ma per non toccare i cosi. L'ultima, quest'ultima cosa così ti volevo solo dire. Adesso non avrete educato quattro voci, ma non io, perché io sono oramai mi sono preso l'abitudine di toccare quello lì e basta per cambiare i canali. Cappa. Vabbè, ma se c'hai il coso dei canali, va bene. Anche io uso sempre il cambio canale dal microfono, capito? Va bene, dai, vi saluto. Ciao di nuovo Antonio, Antonello. ci sentiamo alle prossime. Da parte mia, QR Tango. Ciao, buonanotte a tutti. E io, buonanotte, ciao. Di tutto, ancora non ti ho salutato, e buonasera. Quanti minuti a te che vado a vedere? Claudio, ci sei ancora? Ehi, banana. Dimmi già. Cosa? Ti lo ricordi se siete qua preso per il coso fusibile interna? Sì, che ce l'ha. Tutto più tardi, tutto fa. Adesso si vede con il DVD. Ma come esce la voce in basso già? Basso di radio? No, di segnale. E anche l'auto. Ci sentiamo nuovo, ragazzi. Fatto sentire 87. radio, così sono i fatti tutti chiusi, voglio un po'. Ma cosa chiudi? 7:40, sì. Radio cattiva. Guarda, guarda, così vuole la radio per farsi sentire, vabbè, questa è per farsi, per fare a muro 45 là. Ma con quello, così in quelle condizioni io penso che qualcuno ne scenda veramente il topo dalla trave. Ah, ero curioso di provare il Ruiz con le mobili più qua. Gigio. Non è ancora provato, infatti. Non mi hai detto niente. Va bene. Chi è che vuole entrare? Ho sentito qualcuno sotto, ma Massimiliano è strepitoso stanotte. Chi è? Allora, parlate in due. Chi è che vuole entrare? Aspetta, Massimilia, che lo stai coprendo. Chi è che vuole entrare? Ero io. Ho detto dallo spezzone che stavano problemi. E ti ha spennato Gianni. Certo, si è rinato Gianni, ero più root. Allora, è lo spezzone che stava dando problemi. Ha detto, ma cosa hai gommeato? Anche tu sei più o meno come Massimiliano, siete tutti e due con lo stesso segnale. 9:40, 9:40. Solo Massimiliano c'ha la radio leggermente più alta della tua. Siete tutti e due una bomba. Claudio! Poi! Guarda che vedo, sono Rusco, ma... No. Minchia, cioè questo invece con l'MB più 4, abbasso lo farà bene nel microfono. Così metti a 8, vedi un po'. Metti la 7. Così ce l'abbiamo a 7, vedi un po'. Bella radio, bella, bella, vedi? Quello si va bene con la Royce. Il più 4 va bene con Royce. Quello mi dice che va bene così, eh? Sì, per me sì, per voi? Prova a chiedere a Gianni, Antonio, Antonello, per me va bene. Tu cosa dici tu? È male, non è male, va bene. Cacchetti, che sono ben vera, grazie, posso dire una cosa. Avevi, che te l'ha detto io lo smitter. Guarda Anto, sì, ma tu lo sai dove sono io adesso, già lo sai, no? Quando ero via Pasqua mi arrivavi 9:30, io sono a carbonate e mi arrivavo 9:10, capito? Con quell'antenna piccolina che hai, 9:10, di cosa decisamente ne vai 4 watt, 9:10 dall'altra parte della città, vai più che bene, ma non bene, benissimo. Ma qualche giorno ti faccio vedere un giorno che sono lì ti posso vedere una cosa, va, a vedere quanto arrivo a carbonate. Oh, lo prendo io, dai, io vado a cenare, buona serata a tutti, grazie del controllo e ci sentiamo nel prossimo, va. Oh, ma ci vedi? Dimmela. La base è provata, vai, bene, va. Questa profilo stasera la devo provare e ci metto questo tammeto sotto il sedile a vedere. Oh, allora, quella MP più 4 è un regalo di Natale, bene qua. Le sigarette non te le posso regalare perché non stai più fumando. Vai, scorreggiati. No, vai, scorreggiati tu, quello regalo per Natale, vai. Così c'è il microfono per il coso, per il Ruiz. Che mi piace troppo questa radio, non lo dà mai a nessuno questa radio. Ciao, dai, già ci vediamo prima di Natale, dai, fatevi cenare che faccio un fame. Buona serata a tutti, grazie dei controlli, ciao. Ciao, buon proseguimento di serata. Ciao Massimiliano, ciao, saluta la signora. Avanti Gianni. Ciao Massimiliano, ci sentiamo, buona serata, buona continuazione. Beh ragazzi, io stavo chiudendo, lasciatemi andare che mi guardo una mezz'oretta di TV e poi me la vado a nanna, dai. Stavo aspettando che rientrassi tu già per vedere se era tutto a posto. Mi hai fatto un po' preoccupare. Ascolta, perché il 747? Cosa si è bruciato il fusibile? no, perché lo volevo mettere esterno, poi ho pensato che magari lo avessi interno, adesso non me lo ricordavo, però stare a aprire. No, no, ce l'ha interno piccolino da 15 amperi, mi pare che sia da 10 o da 15 amperi piccolino, ce l'ha vicino alla... Allora ce l'attacco l'antenna in mezzo lì, capito? Non ti preoccupare, non succede niente. Ok, dai, comunque te andiamo benissimo, segnale tuo, è tornato alla grande, 9.40, e vi saluto. Ciao Antonio Bombolo, saluto a Babbo, ciao Antonello e ciao Gianni, eventuali amici che sono in ascolto. Buonanotte a tutti, me ne vado a Anna, ciao ciao. Ma ciao, quando vai, scrivo anch'io, ciao ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao a tutti quanti. Ma che tu Antonio stai chiudendo? E allora, io devo scendere giù, portare la Mondese, chiamare mia figlia per domani, per andare a scuola, e dunque io approfitto anche per quello. Vabbè, buonanotte, ciao, ciao, ci sentiamo. E io, ciao, buonanotte a tutti.